ore 19 sta per iniziare su Radio Onda Rossa una nuova puntata di Likewise. Questa è la nostra sigla, la nostra nuova sigla della terza stagione. Lei si chiama Moonchild Shanley, Undumpable. Pinklo, come stai? Benissimo, sono le 19.01, come dicevamo, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Benvenuto e bentrovato a tutto e a tutti. E... è il 3 di giugno, tipo, no, non è vero, è il 3 di ottobre, ma tanto a Roma sembra giugno, praticamente perché ci sono 30 gradi fissi. Allora, non approfitteremo della, di nuovo di Note e Cose Città, quindi cerchiamo di iniziare la puntata di oggi abbastanza puntuali, senza troppe chiacchiere. Grazie per i commenti, insomma la sigla vi è piaciuta, la teniamo allora come ci avete detto di fare. Sì, partiamo a bomba, allora sono Slow Dive, The Slap. questa era The Slab, Slow Dive, tratto dall'album Everything Is Alive, che è uscito il 1 settembre per la nostra ormai amatissima Dead Oceans, una etichetta che sforna cose molto interessanti che ci piacciono tanto. Rachel Goswell torna, che loro devono essere pieni di ottimismo per il nome che si sono dati all'etichetta. Rachel Goswell torna, uno dei miei idoli adolescenziali, anche se diciamo insomma coetanea, praticamente lei è un paio d'anni più grande di me, voce e chitarra della band Slow Dive, con un album godibilissimo che è il loro, diciamo, primo vero album dopo insomma il lungo iato che diciamo si erano concessi. Ritornati insieme credo intorno al 2014, 2014, no? Ecco. Sì, sì. Le abbiamo anche ascoltate, abbiamo ascoltato la band nella scorsa stagione quando è uscito il, cioè celebravamo il trentennale di un loro fantastico album dal titolo Souvlaki, e poi appunto io sono stata felicissima di finalmente accogliere l'ascolto di Everything Is Alive, perché sai insomma Slow Dive, una delle mie band preferite, e poi insomma sono quelle band che ti piacciono, quelli che hanno messo i cantanti a suonare in un'altra, a cantare in un'altra stanza, e loro si sono messi a fare le chitarre dall'altro, quindi loro si sentono tipo dall'oltretomba, tipo ma che sta cantando, non si capisce, però c'è questo muro di suono. Questa è la tua interpretazione dello shoegaze dello del pop, okay. Vabbè, poi più o meno ci stiamo, dai, questo non vuol dire che non sia bello, ma assolutamente è una bellissima definizione, dovremmo raccogliere tutte in un quadernetto. Insomma, dopo il primo EP che come dicevamo nel 2017 aveva segnato un po' il ritorno anche alla composizione della band, Clo non mi spaccare lo studio, e insomma questo è secondo me un ottimo lavoro, cioè tutto quello che ci piaceva della band Slow Dive, e nonostante alcune recensioni un po' freddine, io comunque sono, non sono stati prolifici loro in carriera, perché alla fine questo è il loro quinto disco dall'89 e il secondo diciamo dopo la riunione del 2014. Vabbè, certo, c'è stata una grande e lunga parentesi appunto in cui non hanno suonato insieme, si sono sciolti nel 1995. Solo cose belle loro fanno. Sono in tour, diciamo, saranno in tour per presentare quest'album un po' dovunque, e in Europa all'inizio dell'anno prossimo. Insomma, speriamo che a un certo punto gli scapperà anche una data, non dico da queste parti, ma insomma. Queste parti ormai non arriva più quasi nessuno. A posto. State ascoltando, oggi sei di un umore. State ascoltando Likewise, questa è Radio Onda Rossa, siamo alla nostra puntata numero 62. E che facciamo alla 100? Dice, ma è presto per pensarci. Vabbè, ci penseremo. E pensiamo al prossimo pezzo. Pensiamo al prossimo pezzo. Sei Shishi Norma. We will not go back. Normal, la band si chiama Sei Shishi, che abbiamo già passato tanto tempo fa da queste parti. Puntata numero 16. Bravissima, questo è tratto dal doppio album che si intitola Silver, 16 canzoni ispirate appunto al disco, alla disco, come avete ascoltato, al funky, super super godibilissimo, anche delle tracce super ballabili, come avete visto. Questo trio vocale formato da Pia Malik, Sabrina Milleo Cunningham e Nia Gazelle Brown, che sono l'anima e anche insomma la scrittura la composizione di questi, di questa band, poi accompagnata da vari musicisti. Sì, cioè loro in realtà sono un trio che poi è diventato un assemblo, cioè nel senso adesso hanno i musicisti che suonano con loro anche in maniera più, più stabile, più fissa, però, e quindi sono, diciamo, diventati un gruppo di 8 persone, però alla fine sostanzialmente il progetto è in mano alle 3 artiste che avevano un'idea ben precisa, che era quella proprio di riportare insomma fuori il suono delle band femminili degli anni 70, band che effettivamente, come dicono loro in un'intervista, hanno dato tantissimo alla musica, soprattutto anche alla musica pop che è venuta dopo, dopo quelle band. E hanno, secondo me è molto carino come si sono conosciute, perché Sabrina abitava praticamente sotto Pia o sopra Pia, insomma loro abitavano nello stesso stabile e a un certo punto si sentivano cantare attraverso i muri e quindi si sono incontrate, e dopo che si sono incontrate in qualche modo hanno coinvolto anche l'amica di Pia, cioè Naya, che stava che era comunque, aveva collaborato con Naya diverse volte, e appena si sono viste si sono messe a cantare, quindi tutto sommato hanno trovato subito un'intesa e un feeling, e questo dal disco in realtà si sente molto, e ti riporta indietro, ma in realtà secondo me sono anche molto moderne, cioè è una rivisitazione di quel sound molto interessante, cioè non è banalmente la riproduzione dei gruppi femminili degli anni 70, è qualcosa di più complesso. Sono d'accordo, tra l'altro l'album scorre in maniera fantastica, quindi ascoltatelo, e il pezzo che abbiamo scelto, in particolare quello che avete ascoltato, Norma, ha anche, diciamo, un testo insomma importante, significativo, quindi è interessante anche il connubio con una musica che sembra super leggera, era super allegra, con in realtà un testo che parla decisione, della sentenza della Corte Suprema Roe contro Wade. Questo è insomma Roe v. Wade, lo dicono insomma gli americani, la chiamano così, che era la sentenza con la quale in sostanza veniva nel 1973 proteggeva l'aborto come un diritto, e ovviamente questa canzone è nata quando questa Roe v. Wade è stata messa in discussione, perché ora ogni Stato può decidere in maniera indipendente, quindi sappiamo quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Sì, l'ultima curiosità che vi possiamo dare sul disco è che è stato registrato e scritto dal vivo su un nastro, quindi questo suono così caldo che sentite non è, diciamo, una riproduzione digitale, ma effettivamente perché il disco è stato registrato dal vivo ed è stato registrato su pista, quindi in analogico, quindi conserva quel calore che secondo me il digitale mai e poi mai potrà restituire. Non potevamo raccomandarlo di più questo disco. Esatto. Il prossimo pezzo, lei è Susanna con The Norwegian Radio Orchestra, e il pezzo si intitola Destruction. Endless guilty love. Destruction's bloody panoply. Questa era la voce di Susanna Waldenroth, o ha mille altri nomi con i quali si è conosciuta. Artista norvegese, anche prodotto, perché esatto, artista norvegese che in questo album che si intitola Baudelaire en Piano si è accompagnata dalla Norwegian Radio Orchestra, ed è appunto chiaramente una, come si può immaginare, un album in cui reinterpreta a suo modo la poesia di Baudelaire. Artista poco conosciuta dalle nostre parti, invece straordinariamente prolifica e è conosciutissima appunto in Norvegia, in quel di Norvegia, tipo 17 album all'attivo. Sì, ne ha tantissimi. È pure difficile mettere insieme tutta la sua discografia, perché appunto ha pubblicato in realtà con diverse formazioni, con diverse band, c'ha una serie di dischi. Lei pubblica innanzitutto dal 2004, quindi comunque c'ha già una bella carriera lunga, quasi ventennale, ormai l'anno prossimo farà 20 anni, e ha pubblicato 3 dischi con la Magical Orchestra nello stesso periodo, però ha inciso degli album da solista, c'ho più o meno 6 se ne contano, poi ne ha pubblicati tanti altri, e tutti questi progetti side. Ha pubblicato un disco con Jenny Wahl, che non so se ve la ricordate, ma l'abbiamo messa anche a Likewise. Poi mi piace quando si sbucano per caso queste connessioni tra artiste che abbiamo messo per motivi diversi in momenti diversi della nostra trasmissione. E poi collaborazioni anche che hanno a che fare con la danza contemporanea, con altre composizioni, esatto, da film. Insomma, veramente un'artista impegnata in tanti campi, che esce solitamente con una etichetta indipendente norvegese e anche con una sua piccola etichetta, esatto, che si chiama Susanna Sonata, esatto, che esiste, molto bella, che è con quella che ha prodotto questo disco qua di Baudelaire, l'ha prodotto lei, esce con la sua di etichetta, che è attiva dal 2011, quindi insomma veramente tantissima roba, e ci piaceva farvela ascoltare anche perché questo album è molto interessante. Ovviamente l'orchestra con cui l'ha registrato è l'orchestra della NRK, che è praticamente la nostra RAI, immagino, cioè la loro RAI, cioè nel senso che sì, la nazionale, la radio nazionale norvegese, e l'orchestra è stata fondata nel 1946, quindi anche loro una lunga storia, diciamo. Cambiamo stile, cambiamo paese. In realtà lei è finna insieme a Tigress Punch, 1000%. Endlich wieder Energy, war viel zu lang mein Enemy. Gar nichts ging, 0%, lass mich liegen, c'est la vie. Jetzt renn ich von Highlight zu Highlight. Gib mir das Hype Life, alles glitzert Eiszeit. Bin wie Elsa, let it go, liebe alles, let it flow. Keine Zweifel, Risiko, bin ready, schmeiß den ersten Stein, Domino. Knock mich aus, bis ich wieder spür, bin nicht unendlich, sondern endlich. Gar nicht selbstverständlich. 1000% alles. oft vor die Wand gefahren. Auf dem Zug, Gaspedal, wieder, ist nur egal. Gelernt mich einzusammeln, gelernt mich aufzuheben. Alles tut mir ständig weh. So sehr liebe ich dieses Leben, will das alles fühlen, will das alles mitnehmen. Hype, Level und normal, denn ich bin am Leben. 1000% alles mitnehmen, was geht. Hauptsache ich bleibe jetzt nicht mehr stehen. Più Tigre Punch 1000%, come sapete cerchiamo sempre di ascoltare quando è possibile musica anche in altre lingue. Ci sta piacendo molto la produzione di questa etichetta tedesca che si chiama Audiolis. La settimana scorsa abbiamo ascoltato Queen Who da Brema, e invece questa settimana, come avete ascoltato, c'è questa bella collaborazione tra la singer e producer Finna, una, come si definisce, una rapper queer feminist, che spazia tra il Riot Trap, come lo chiama lei, che insomma è più bello di trap, pop and punk, e Tigre Punch, che appunto anche lei autrice, produttrice di musica, diciamo, lei dice nerd esatto, nerd, che, perché lei fa musica nerd di giorno e di notte distrugge il patriarcato, esatto, sua. Esatto, queste insomma sono le loro autodefinizioni che vi riportiamo, insomma bella sinergia tra loro due, bellissimi progetti, diciamo. Anche le altre cose che abbiamo ascoltato sono molto carine, sono in concerto in giro per l'Europa, quindi magari vi capita di andarle a vedere. E al di là di questo singolo che appunto hanno fatto insieme, chissà se poi ci sarà una collaborazione un po' più ampia, più larga, però vi consigliamo di ascoltare anche i loro singoli, cioè dischi. Fuck It è uscito l'anno scorso a settembre, esattamente a settembre, quindi un anno fa, è autoprodotto di Tigre Punk, e io vi farei anche ascoltare, se vi va, Zafcore, che è il disco invece di Finna, e secondo me sono buonissime colonne sonore in vista dei cortei contro la violenza maschile sulle donne, così per darci la carica. Esatto, per darci la carica, assolutamente, mi sembra un'ottima idea. Beh, ottimo suggerimento. Grazie, brava Piccolo. Sono le 19:30 qui siamo quasi dalle puntuali parti di Radio Onda Rossa. Questa è Likewise, 87.9 per chi ascolta la radio, se no in streaming ondarossa.info. ci potete scrivere a likewise@ondarossa.info e potete scrivere quello che vi pare, oppure chiamare lo 06 49 17 50, e adesso dire quello che vi pare, uguale sempre libertà, adesso o in qualsiasi momento avete bisogno di comunicare con questa radio. Prossimo pezzo, lei è una a cui siamo tanto affezionate, che ha cambiato di nuovo genere quasi, dai, Chelsea Wolf, Dusk. torna Chelsea Wolf con il nuovo pezzo che si intitola Dusk, che avete appena ascoltato, uscito il 20 settembre scorso per la sua nuova etichetta che si chiama Loma Vista Recordings. Inizierà un nuovo tour prima, diciamo, di proporre qualcos'altro di nuovo a breve, che noi non vedremo mai ovviamente, e speriamo che dopo il suo ultimo album del 2019 questo singolo in qualche modo ci dica, ci annunci l'album. Te l'ha detto a te Pinclo che sono stato? No, a me non me l'ha detto, però penso che ci possiamo consolare ampiamente con l'album del 2019 che io riascoltavo questo pomeriggio mentre scrivevo un po' di cose per la puntata. Birth of Violence è molto molto molto molto molto bello, quindi anche là, cioè non c'è, insomma, nell'attesa c'è sempre un modo, anche perché anche lei è un'artista che non è sicuramente in giro da pochissimo, ha già insomma due album all'attivo, ha scritto una colonna sonora l'anno scorso, nel senso non sta pubblicando cose espressamente sue, ma sta lavorando tanto nel mondo della musica, ha scritto la colonna sonora per un film horror che io sicuramente non vedrò perché non guardo quei film, però vabbè. Magari la colonna sonora comunque è figa. Esatto. Loma Vista, vogliamo segnalarvi questa etichetta se non la conoscevate già, anche perché insomma per due cose: una, perché ha mandato a fanculo Marilyn Manson quando sono uscite tutte le, diciamo, accuse di abusi, e quindi questa è una bella cosa, insomma, male, prendere posizione è sempre cosa buona e giusta. E poi, cioè, fa uscire gente come Sampa the Great, Sam Vincent, Sock and Mommy, Silvanesso, e appunto, secondo me è stata Sam Vincent che è andata negli studi e ha detto famosa HP. Vabbè, insomma, comunque è una bella etichetta che c'è, che ha evidentemente anche un'etica che ci piace, e quindi insomma quando succede, quelle rare volte che succede, diciamolo, che succede, no, diciamo assolutamente sì. Passiamo a un'altra canzone, un altro singolo in realtà, nella speranza anche qui che arrivi presto un disco, Barebone Gavial. You can see him through my skin. I'ma tell you what's the deal. Who and why and where and when. Yeah, I've been through hell and back. Spread my wings, I'm flying in. Yeah, soul over beauty. That's my heart, I'm breaking in. Peace and blessings. How the rough year got me stressing. Had to do a lot of disconnecting. Had to cut them off, no checking. Not one for the disrespecting. You a snake and aggressive, I reckon. Gaslight for the execution. But I'm a queen in high resolution. You know this, all of my homies inspire me. Making it something from nothing and keeping it real. That is just something that's so hard to find. Most of these catches just waiting to steal. Whoever you trust, hold on tight. Cause those ain't the type that I come back twice. I'm a bona fide hustler, rolling the dice. Going independent never felt so right. Fool me once, use a trick. Can't fool me twice. Nah, I ain't tryna have it, bitch. I'm done playing nice. They wanna take you for granted until you gone out of sight. Oh, now you get it. I'm magnetic. Was it worth the sacrifice? Bare bone with my emotions. You can see them through my skin. I'ma tell you what's the deal. Who and why and where and when. Yeah, I've been through hell and back. Spread my wings, I'm flying in. Yeah, soul over beauty. That's my heart, I'm breaking in. Loyalty over respect. Honesty over a check. They working in what they have left. I'm using my pen just to vent. I'm fruitful, I'm placing a bet. My aura is so heaven sent. I'm keeping it true cause I am. You fake it and never like damn. Whoa there, you an actor. Guess I gotta set it off with a clapper. Yeah, I'm about to make a scene, director. Yeah, the comma gonna hit, reflector. Yeah, I'm about to shine a light, projector. Let them say what they feel, no connector. I'ma get it how I live, nothing lesser. You fucking with a real one, that's a factor. Bare bone with my emotions, you can see them through my skin. I'ma tell you what's the deal. Who and why and where and when. Yeah, I've been through hell and back. Spread my wings, I'm flying in. Yeah, soul over beauty, that's my heart, I'm breaking in. Bare bone with my emotions, you can see them through my skin. I'ma tell you what's the deal. Who and why and where and when. Yeah, I've been through hell and back. Spread my wings, I'm flying in. Yeah, soul over beauty, that's my heart, I'm breaking in. Questa era Gavlin con Bebone. Per me poteva andare altri 3 minuti avanti. Tranquillamente, ci stavano tutti. Artista che io conosco zero, praticamente. È uscita fuori a un certo punto in una bella compilation con questo pezzo che era da pochissimo uscito, e quindi l'abbiamo infilato dentro e abbiamo recuperato anche le altre cose. Qualcosa lo sentite in sottofondo mentre parliamo, e che poi sentirete anche nella scaletta dei pezzi che non ce l'hanno fatta. Esatto, che però poi ce la fanno sempre in qualche modo. E ha scritto 3 dischi, comunque li ha già pubblicati. L'ultimo disco del 2021, Say Less, Love More, sono 13 tracce, quindi ce la possiamo godere in serenità prima che esca fuori un nuovo lavoro. Sì, cresciuta tra San Francisco e poi Los Angeles, infatti fa parte di questa scena che è anche abbastanza difficile da conquistare, soprattutto per una musicista, e quindi insomma grande successo con il singolo di debutto, e poi insomma un po' fatica a farsi strada, ecco. Tante belle collaborazioni con DJ Hoppa, per esempio quella che ascoltiamo in sottofondo, però insomma ancora forse probabilmente deve conquistare quella, almeno fuori dagli States, quella fetta di pubblico che secondo noi merita. È per questo che la mettiamo Likewise. Esatto. Così voi l'ascoltate, vi piace, la continuate ad ascoltare, e quindi magari anche lei poi prima o poi un giorno verrà in Italia. Chi verranno in Italia invece questo weekend, il 7 dicembre, saranno Krampka e Coma, che sono le prossime artiste che vi facciamo ascoltare questa sera Likewise con Standing Firmly. Comma Standing Firmly, singolo uscito quest'anno, anche se come raccontano sul loro Bandcamp è in realtà pronto l'anno scorso, ma essendo un duo di multistrumentiste ucraine potete immaginare quale sia la ragione per cui non è uscito subito, ma come raccontavano in realtà poi questo ha fatto sì anche che il singolo si arricchisse di altre cose, perché è stato mixato in Estonia, masterizzato in Polonia e la cover picture, la foto della copertina del singolo è stata scattata in Lettonia, quindi insomma in sì, qualche modo hanno girato. Sì, perché la storia in realtà è carina, appunto loro stavano registrando questo pezzo, sono un duo di elettronica che però fanno appunto questa elettronica con le incursioni, come avete sentito anche nel pezzo abbiamo sentito, molto jazzate, quindi una cosa, qualcosa di molto molto interessante. E si erano visti in studio per registrarlo, poi in realtà avevano pensato che ci volevano mettere una batteria e quindi avevano prenotato anche lo studio per il giorno dopo, ma poi c'è stata appunto l'invasione della Russia, dell'Ucraina, e quindi ovviamente è saltato tutto, ma sono state ospiti resident al Telling Music Week e allo studio 89, dove poi appunto hanno registrato alla fine la versione che abbiamo ascoltato tutti insieme. Quindi insomma ve le raccomandiamo, una manciata di cose in giro che potete ascoltare su web, in particolare l'ultima cosa che hanno fatto insieme era una raccolta uscita durante il lockdown di piccoli, diciamo, beat appunto soltanto strumentali molto molto carini, quindi insomma da riprendere, e per cui ve le consigliamo. Stavi anche dicendo che saranno in giro da queste parti, insomma. Sì, sono in realtà sono in Toscana, perché sono all'Arezzo Wave Love Contest and Festival, che se vi ricordate insomma è un festival che ha ormai una lunghissimissima storia. Devo dire che ci sono stata anche io, ci sono andata più volte, due volte mi sa, una volta ci ho visto pure Sonic Youth all'Arezzo Wave, e girato diverse location fino a che finalmente è tornata, diciamo, nelle zone di Arezzo, e adesso si svolge a Caviriglia questo weekend, quindi sabato, venerdì 6 e sabato 7 ci sono diversi concerti, tra cui sabato 7 ci sono esattamente loro due che suonano, e se avete voglia, se tenete le vicinanze, vi sono piaciute o vi piaceranno, perché questa settimana ve le ascoltate con calma e decidete che vi piacciono, il pomeriggio faranno appunto anche una chiacchierata, discussione, insomma, perché poi loro molti dei proventi che raccolgono li usano per comprare medicinali, insomma, attraverso varie associazioni da spedire in Ucraina, e cercano ovviamente di raccontare un po' la situazione che c'è lì da un altro punto di vista. 19:48, dobbiamo smettere di parlare, siamo quasi in orario, siamo contenti di questo. Prossima pezzo, lei si chiama Zara, I'd Like You to Leave. Willow, Zahara, I'd Like You to Leave, dall'album Tender uscito lo scorso 23 settembre, quindi insomma ancora caldo. Fresco, fresco. Cantante, cantautrice, musicista. Queer. Esatto, cresciuta a Los Angeles da... Infatti vorrebbe usato dei dem, mi sa che ho letto in un'intervista. Ah, non l'ho letto questo, forse una cosa nuova. Ok, quindi da famiglia messicana filippina, quindi insomma grande grande varietà nel suo background musicale. Secondo album molto carino, insomma, con queste sonorità, come potete ascoltare, molto indie, parecchi synth, un suono abbastanza lo-fi, molto sporco, insomma come ci piace a noi. Esatto, come ci piace a noi. E quindi ve la consigliamo da ascoltare, è uscito per la Lex Records, il loro secondo disco, sono 10 tracce e quindi mettete sui taccuini se vi è piaciuta, andatela a cercare a palletta. Prossimo pezzo, il pezzo numero 9, lei è Lauren James e il pezzo si intitola Prelude of Tired of Me. If it was smooth, I was on my side, but if it was cool, then it wasn't cool. Stop, there's no reason. Couldn't catch my feelings, do know the reason. I might have person, but I don't get this vision. Don't get this vision. What's the reason? This is the worst thing. This is the worst. This is the worst thing. What's the reason? I'm tired of me. First things first, first thing. If it was accurate, if it was smooth, it was on my side. But if it was cool, then it wasn't cool. Stop, there's no reason. Couldn't catch my feelings, didn't know the reason. I'm my own person, but I don't get this vision. Don't get this vision. What's the reason? This is first worst, first is this worst thing. Worst thing. Non ho nota di più per questo fantastico pezzo, Lauren James, Prelude of Tired of Me, tratto dal terzo album in 4 anni, tra l'altro, che è uscito per la Hyperdub, che si intitola Gentle Confrontation. Un disco che vi consiglio caldamente, è veramente da ascoltare con attenzione, bellissimo. Con lentezza, da riascoltare. Ogni pezzo è, diciamo, una storia a sé, quindi veramente molto molto interessante. E soprattutto lei è una musicista fantastica, una musicista fantastica. In realtà ha iniziato a incidere nel 2017, ha autoprodotto Details, poi si è firmato con la Hyperdub e questo è il suo terzo disco. Aveva debuttato con loro nel 2019 For You and I, e il disco, devo essere sincera, è molto bello, cioè nel senso è quell'elettronica, almeno che a me è sempre piaciuta, un po' che chiamavano una volta, insomma, di concetto, ma delle sonorità e dei suoni molto vivi, molto caldi, cioè non è fredda come spesso magari si pensa di questo tipo di composizioni, che sono un po', dice, un trip dell'autore, autrice, autor, insomma, che sia. Invece il disco è molto caldo, nonostante sia un disco di elettronica e nonostante ci siano questi partner proprio elettronici con questi suoni molto minimali, glitchissimi. Hai ragione, esatto. E siamo d'accordo, sono due puntate che siamo d'accordo proprio completamente su un pezzo. È per piccolo. Quello che fa caldo, non c'è l'autunno. Likewise, Likewise sta perdendo questa, no a parte gli scherzi, questa è Likewise, questa è Radio Onda Rossa. Noi siamo pronte per l'ultimo pezzo prima di lasciare i microfoni a Note Cose Città, i nostri splendidi straordinari amici che non ci sentono e che seguiranno però appunto la trasmissione insieme ad altre trasmissioni che poi seguiranno nel martedì. No, ho detto certo, bene, hai detto benissimo, è vero. Prossimo pezzo, che è l'ultimo pezzo di questa sera, lei si chiama Al Sara ed è accompagnata dalla band New Batons for Russia. شباب بيا فلو بنيا جوي سوكدي ما في داعي لف وكرتيا نحن كونيات خلقية نخلق أدب بقلة أدب معاك كينج الهابطين ولكن بالراب مارس دمح أمية مكهرب مجكك ورق أمية بسمع النور بنقود ذكرى منسية جيلان عزب الدور شوالات شطة للحرامية الآن ده ركبت الفكر لن تدوس ودوس هان ارتحنا لما فترنا خنقنا خرمنا بمبان نسان غلبان مهارات فردية كلام غضبان بس النية صفية والكيزان ما استثمروها الطفلة طاهرة ما انتو اللي بتطهروها تلقاها سايدة ولكن انتو اللي بتستعبدوا عيونها ساهرة مقوقعة فركان سجونها بتفكر في بطش اخوها الشافي هم ابوها عشان يمارس الشرف قالوا يكبلوها بدل ما يضموها ويقبلوها بعينوا للكعبة ويقبلوها شر طبيح احلام شريت الهام شر المجتمع والاهل تاني ما ينصام في دقار هنا شيل هرارك رجعوا في حمام دي ما حرمة ناديها مدام لو اتكرمت دي ما قرمة دقرت شربان سر الهوى كل من عليها جان السلام جاء وراجين التعايش لان قلم دايش لان ألم لايش لان بيم نايش لو انفصم جايز يغسل بيك لسان عفن جايب رايش في عارة بحري خرطوم علاقة قوية هدوم مع انه في توم في القدوم رسالتي ليكم عنا لا بدت لا تعد سنسرالي يوز محبكم قرد اول فيليب تراو رئيس اركان سلاح راب السودان دوغان. Eravamo catturate da questa bellissima lingua, lei è Al Sara and the Nubatons, il pezzo si intitolava Farasha, singolo uscito quest'anno, non ancora seguito da altre uscite nuove, quindi non possiamo consigliarvi un album legato a questo singolo, però possiamo consigliarvi di andare a guardare la storia e la produzione di questa fantastica musicista, etnomusicologa e insomma attivista originaria del Sudan. Sì, da dove sono dovutissima. scappare perché appunto i genitori, come stava dicendo Donna, sono degli attivisti, quindi sono andati via nell'89 quando c'è stato il colpo di stato di al-Bashir e sono scappati, hanno vissuto per un po' in Yemen, poi quando è scoppiata la guerra civile nello Yemen nel 94 sono in qualche modo arrivati negli Stati Uniti d'America e stanno, non so se stanno ancora a Boston. Come rifugiati, ovviamente, sì, sì. Insomma, quindi ovviamente tutta la sua musica e tutto il suo lavoro musicale e di etnomusicologa comunque è influenzato dalla sua esperienza e anche dal tipo di attivismo in cui è cresciuta e nel quale vive, quindi ve la consigliamo. Niente, siamo arrivate, la sigla. Praticamente puntuali alle 20:02. Incredibile. Se le nostre ascoltatrici hanno curiosato su chi è lei, da dove arriva. Monchild, Sanely, chissà da dove arriva, chissà. Allora, visto che siamo in orario, non ci rubiamo altro tempo e vi salutiamo, speriamo di avervi tenuto una buona compagnia per quest'oretta di musica. Per chi non è riuscito ad ascoltare la diretta, dimmi. No, che non ci saremo la prossima settimana, dobbiamo ricordare. Ah, forse non saremo in diretta, ecco. Forse sicuramente non saremo in diretta. Cercheremo di registrare perché abbiamo talmente tante cose da farvi ascoltare che non vorremmo saltare una settimana. Vediamo, ci proviamo. In ogni caso, voi restate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Se sostenete questa radio, sapete che potete farlo tutti i giorni, ogni giorno, quando volete, dal sito della radio, cliccando su sostieni. E ci sono tutti i modi e le modalità per cui potete dare il vostro contributo per far sì che questa radio possa andare avanti, oppure passare in radio quando insomma più o meno siamo qui, qualunque trasmissione va bene, così magari incontrate anche la trasmissione che vi piace e lasciare. Pensavo i vostri artisti preferiti. No, la trasmissione che vi piace, non esageriamo. Va bene, ciao, buona serata, vi lasciamo con Note Cose Città, ciao. Basically, Andy Vai. I don't wanna play, man. Go.